Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di salari e potere d'acquisto. C'è un rapporto, uno studio a mio avviso molto interessante su a parità di salario quanto cambi il salario rispetto al salario nominale, chiamiamolo così, il salario reale, quindi il potere d'acquisto, a seconda che uno abiti al nord, al centro, al sud del paese, in una grande città o in un piccolo capoluogo. Lo dico perché le differenze sono incredibili. Un bancario a Milano ha un potere d'acquisto, tra Milano e Ragusa, ha un potere d'acquisto più forte quello di Ragusa, a parità di salario del 47%, che vorrebbe dire che per avere lo stesso potere d'acquisto il bancario di Milano dovrebbe guadagnare quasi l'80% in più. Ragionamento analogo si può fare per gli insegnanti e quindi per tutti quei salari che sono sostanzialmente uguali sull'intera penisola. E mentre il potere d'acquisto, ossia costo della vita nella penisola, è molto molto diverso. Lo faremo anche perché poi torneremo su un tema che ci sta particolarmente a cuore: l'Assemblea regionale siciliana, il Parlamentino della Sicilia. Io ho detto molto chiaramente che sarei per eliminare tutte le regioni a statuto speciale e soprattutto non capisco il perché di un Parlamento che non riesce ad approvare, ne abbiamo parlato 4 giorni fa, una norma che portava lo stipendio non dei politici ma della parte tecnica, dei burocrati, al massimo a 160.000 euro. Non nulla da fare, il tetto massimo è stato spostato a 240.000 euro. Non è un bel messaggio. C'è anche uno scontro, c'è un'intervista a mio avviso quantomeno strana da parte del presidente, non strana, opinabile, diciamo, da parte del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Ardizzone, per quello che riguarda che non vuole cedere al populismo, alla demagogia. Ma che populismo e demagogia? Sono troppi soldi, quindi non è un problema di populismo e demagogia. 240.000 euro come tetto massimo sono troppi soldi, visto anche che stiamo parlando di una regione che nel 2014 chiude il bilancio probabilmente con 1,5 miliardi di buco, che non riesce a fornire i servizi alle persone che sono sulla soglia di povertà, non riesce a dare un reddito di sussistenza a 180.000 siciliani. Però quando si toccano gli stipendi addirittura dei burocrati, degli impiegati, il tetto massimo deve essere portato a 240.000 euro. Dovremmo avere anche il presidente della Regione Sicilia, che non c'entra nulla con l'Assemblea regionale siciliana, l'abbiamo spiegato nei giorni scorsi, un po' la differenza che c'è tra il Parlamento italiano e il governo o un ministero. Gli stipendi dell'Assemblea siciliana sono comunque i più alti di Italia, superiore alla Lombardia, che ha situazione finanziaria molto sicuramente migliori, non so di quanto, ma sicuramente migliori, superiore al Lazio, superiore alla Calabria, superiore al Veneto. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, dicevo, si difende affermando che questo palazzo non si lascia condizionare dal populismo che nel tempo, vedrete, si scontrerà con i giudizi scontati della Corte Costituzionale e dei giudici del lavoro. Sarebbe facile venire incontro alle pressioni della piazza e introdurre un tetto magari inferiore ai 160.000 euro. Ma come insegnava De Gasperi, una cosa è guardare alla prossima campagna elettorale, un'altra pensare alle future generazioni. Io non so se De Gasperi sia contento di essere citato da Ardizzone. A me sembravano due persone così, con una statura leggermente diversa, ma tant'è. Attenzione, il tempo darà ragione, la Corte Costituzionale, i giudici del lavoro. Mai anticipare il Natale, come dicono gli americani, al tacchino. Notizie in breve. Sì, vedo già molti messaggi: 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso arriviamo Adesso arriviamo. Io ho letto l'intervista che ha rilasciato al Giornale di Sicilia, Dizzone, l'ho letta testualmente, non ho fatto nessuna ironia, ho detto solo che il riferimento con De Gasperi mi sembra molto alto, visto che De Gasperi, quando parlava delle future generazioni, ma poi non ho capito, qui stiamo dicendo che dovete ridurvi i soldi e lei mi dice, mi cita De Gasperi sulle future generazioni, è proprio per le future generazioni che deve costare meno la pubblica amministrazione e deve essere anche più produttiva. Un po' di confusione sotto il sole siciliano. Andiamo avanti, il vertice europeo, chiaro che lo tratteremo, seconda giornata IPR del vertice dei capi di governo, si sta cercando di arrivare alla definizione dei ruoli chiave e anche e soprattutto l'interpretazione più flessibile del patto di stabilità e quindi le regole di bilancio. Distanti, avete letto i giornali nella notte, le posizioni non solo tra Cameron e Merkel, gli inglesi non volevano Juncker, dicono che addirittura è un ubriacone che beve cognac la mattina alla presidenza, però distanti anche le posizioni tra Angela Merkel e il duo Matteo Renzi e François Hollande, dove Francia e Italia spingono per una minore rigidità nelle norme. Comunque, per quello che riguarda Jean-Claude Juncker, Partito Popolare, ex presidente dell'Eurogruppo, dovrebbe diventare il nuovo presidente della Commissione Europea, isolato Cameron. La presidenza del Parlamento dovrebbe andare invece a Martin Schulz, ma con l'impegno ad un avvicendamento tra 2 anni e mezzo. Poi c'è la presidenza del Consiglio Europeo, che in questo momento ha Herman Van Rompuy, circolano i nomi della premier danese Helle Thorning-Schmidt e anche di Enrico Letta. Lo spagnolo Luis de Guindos è favorito invece per la nomina alla presidenza dell'Eurogruppo, pensate quante cariche. E mentre a succedere a Catherine Ashton come rappresentante della politica estera potrebbe essere il ministro degli esteri Federica Mogherini. Io spero che l'Italia, con massimo rispetto per il ministro Mogherini e per anche la funzione di rappresentante di politica estera, spero che l'Italia ottenga invece una commissione di maggior peso, cioè il tema del commercio con l'estero, ci sono commissioni pesanti, avevamo avuto nella scorsa commissione dell'industria con Tajani, che era servita per riportare la manifattura al centro del dibattito europeo, ricorderete anche l'obiettivo di arrivare a un 20% del PIL prodotto dalla manifattura e anche l'idea di un industrial compact suggerito da Confindustria e ripreso anche dallo stesso Tajani. Nel frattempo i titoli di Stato italiani sono scesi a un nuovo minimo record e questa è una bella notizia. Scendono sotto il 3% i BTP a 10 anni, al 2,81% di rendimento lordo, anche il BTP a 5 anni è calato all'1,35%, è appunto un nuovo record storico quello dei BTP sotto il 3%. Sempre dall'Italia arriva un'altra notizia, mi riferisco al Ministero del Lavoro, ne abbiamo parlato più volte della cassa integrazione in deroga. Qual è il problema della cassa integrazione in deroga? La cassa integrazione in deroga si applica a chi non avrebbe diritto, cioè a chi non è la cassa integrazione ordinaria. Il problema è che spesso mantiene in vita imprese, aziende, esercizi, piccole società che sono già tecnicamente fallite, sono già decotte. Allora, un conto è, con la cassa integrazione, nel caso specifico di quella ordinaria, accompagnare un periodo di difficoltà di un'impresa e quindi avere quello che è un ammortizzatore sociale anche importante. Altra cosa è mantenere artificialmente in vita un'impresa che è già morta, in questo modo risucchiando soldi a quello che dovrebbe essere invece, si pensa all'assegno di disoccupazione, ma comunque a quelle che potrebbero essere sgravi fiscali per le imprese che assumono, per esempio, e quindi incentivate all'assunzione. Obiettivamente la cassa integrazione in deroga in questo momento sta diventando un elemento distorsivo in molti casi del mercato, perché se tu stai in cassa integrazione in deroga per degli anni, forse è il caso, intanto non ti vai a cercare un lavoro e poi l'azienda è già morta, è già decotta, per cui ti stiamo mantenendo in vita solo utilizzando i soldi pubblici che potrebbero essere utilizzati per altre finalità. E allora il Ministero del Lavoro invita le regioni a non fare più accordi per la cassa integrazione in deroga superiori agli 8 mesi nel 2014. Vi vicenda all'Italia, il ministro Lupi auspica che l'accordo sugli esuberi arrivi prima del 15 luglio. Il governo convocherà i sindacati per mercoledì prossimo, ha anche detto Lupi. L'Italia ha confermato l'esistenza di 2251 esuberi e per questo il governo sta valutando l'esternalizzazione di alcuni servizi e la ricollocazione di parte del personale nel territorio. E ha concluso Lupi: l'Unione Europea stia tranquilla sulla vicenda l'Italia Etihad, noi rispettiamo tutte le norme del trasporto aereo, non ci sono aiuti di Stato. La borsa, allora, meno 0,36% Milano, meno 0,12% Parigi, invariata Francoforte, più 0,40% invece lo fa Londra. Chi va particolarmente bene oggi? Mediaset, più 3,85% dopo l'accordo sui diritti del calcio. Popolare Emilia Romagna più 2,1%, Prismian più 1%, Tenaris più 0,80%, come Jux, Atlantia più 0,60%. Male Unipolsai invece meno 2,70%, Saip meno 2,30%, Monte dei Paschi meno 1,90%, Banco Popolare meno 1,5%, Ubibank meno 1,40%. In realtà salgono altri titoli, penso a Banca Popolare dell'Etruria più 5,81%, mentre segnalo anche un calo abbastanza consistente di Seat Pagine Gialle che perde il 5,90%. Euro su dollaro a quota 1,36,32, quindi stabile a quota 1,36. Con i messaggi a Ardizzone e all'Assemblea Regionale Siciliana. Dico però una cosa: guardate che noi in questi anni abbiamo raccontato gli sprechi dei consigli regionali, le accuse anche della Corte dei Conti e le inchieste della Guardia di Finanza in molti casi di tutte le regioni italiane, vado a memoria, Piemonte, Liguria, in alcuni casi Emilia Romagna, poco Veneto non ricordo male, alcuni casi in Friuli Venezia Giulia. Poche notizie abbiamo avuto dal centro Italia, molte dalla Sicilia, ci mancherebbe, dalla Calabria, qualcosa anche dalla Campania, dalla Puglia, però insomma non c'è nessuna prevenzione. Noi dove vediamo notizia di soldi male utilizzati, sprecati, di iniziative diciamo obiettivamente paradossali che hanno come unico comune denominatore che i soldi del pubblico, siccome sono del pubblico, non sono di nessuno e possono essere sprecati come si vuole, ecco, noi lì interveniamo. Non me ne frega nulla del colore della regione, né della posizione, né della latitudine in cui viene a collocarsi geograficamente questa regione. Allora, pagina di Focus Economia su Facebook, 349-238-6666 per gli sms. Partiamo dal primo tema: quanto costa la vita e qual è il reale potere d'acquisto dei salari, i salari che sono fissi, classicamente quelli del pubblico e anche in alcuni casi quelli del privato, laddove penso al mondo bancario, al mondo dei servizi, una società o un gruppo abbia diverse sedi in tutto il territorio. È chiaro che poi nel privato c'è anche una possibilità di fare la contrattazione di secondo livello nelle imprese, però ci sono, lo sappiamo, soggetti, soprattutto nei servizi, che hanno per loro necessità e logica, penso alla grande distribuzione, al mondo delle banche, ma non solo, tutta una presenza capillare sul territorio, e lì le differenze in base a tra il salario nominale e il potere d'acquisto reale sono oggettivamente notevoli. Allora, da sempre lo diciamo che, insomma, lo sa qualunque cittadino dotato di buon senso, che il costo della vita è molto diverso se abiti a Milano, a Roma in centro, o se abiti nella periferia o nella provincia, che il costo della vita è più basso al sud rispetto al nord. Però un conto è raccontarla come vulgata, come luogo comune, come notizia da bar, un conto è andare a fare una ricerca seria e dettagliata, cosa che ha fatto oggi uno studio che si chiama, il titolo potrebbe sembrare fuorviante, si chiama Costo della casa e differenze salariali in Italia, curato dagli economisti Tito Boeri, Andrei Chino e Enrico Moretti, rispettivamente della Bocconi di Milano, della European University e di Berkeley. La ricerca andava a cercare di capire quali sono le prime città se si va a vedere il potere d'acquisto reale. Beh, scopriamo per esempio che le prime città per salari sono al sud, Caltanissetta, Crotone ed Enna, e le ultime prevalentemente al nord, Aosta e Milano. Tra l'altro emerge chiaramente come l'uguaglianza dei salari nominali, anche se è preferibile vista la preferenza collettiva per l'equità, nel senso che tutti preferiscono dire bene, guadagna lo stesso il dipendente della banca X a Ragusa e della stessa banca ad Aosta, però genera di fatto ineguaglianze, rendite, sconfitti e vincitori. Professor Tito Boeri, che insegna economia del lavoro alla Bocconi di Milano, buonasera. Buonasera. Allora, dicevo, sappiamo tutti che il potere d'acquisto in Italia è diverso a parità di reddito, a seconda di dove uno abiti, non è un mistero che vivere a Milano costi più che vivere in provincia, che al nord il nord abbia prezzi più alti rispetto al sud. Però quello che emerge dalla vostra indagine è abbastanza impressionante, perché se ho ben capito ci sono, prendendo per esempio il lavoro del pubblico impiego, dove gli stipendi sono uguali in tutto il paese, ci sono le province più ricche sono tutte al sud: Caltanissetta, Crotone, Enna, c'è Biella al quarto posto e la quinta è Siracusa. Boeri. Sì, in effetti c'è una propria inversione della gerarchia delle province italiane con i salari, perché se guardiamo ai salari nominali noi avremmo che i salari nominali più alti sono pagati a Bolzano, ad Aosta, a Como o a Trento, ma se andiamo a guardare per il costo della vita e quindi guardiamo, si parla sempre dell'inflazione nel tempo, da un anno all'altro, quando si ragiona sul fatto che ci sono delle differenze fortissime nel costo della vita che sono in larga parte collegate ai prezzi delle case, bene, se teniamo conto delle differenze nel costo della vita, la prima provincia italiana in termini di salari reali è quella di Caltanissetta, seguita da Crotone, Enna, Siracusa, c'è proprio un'inversione completa della gerarchia delle province. E poi quello che succede è che questo è un portato della contrattazione collettiva che impone dei salari nominali molto vicini tra di loro che non tengono conto di queste differenze nel costo della vita. Quindi, come diceva lei, pubblico impiego è un caso estremo, perché nel pubblico impiego si pagano le persone, i salari sono gli stessi, per cui per esempio un insegnante di scuola elementare che guadagnava nel 2011 1.300 euro al mese, questa persona praticamente a Milano guadagnava di fatto un salario che era del 30% inferiore a quello di Ragusa, perché chiaramente il costo della vita è molto più alto a Milano che a Ragusa. Quindi diciamo che imporre lo stesso salario a tutti in presenza di differenze così forti nel costo della vita significa creare delle iniquità stridenti, oltre che poi avere delle notevoli inefficienze, perché vuol dire che poi al sud i salari sono relativamente alti e quindi creano disoccupazione. Sì, ecco, va detto che lei citava giustamente, perché è il caso più eclatante, il pubblico impiego, no? Dove appunto l'insegnante di scuola elementare a 1.300 euro al mese equivale ad avere 1.000 euro reali a Milano e 1.550 euro reali a Ragusa, il che vuol dire che praticamente chi ha l'insegnante di scuola elementare a Ragusa guadagna il 47% in più. E il maestro milanese, diciamo così, o la maestra milanese dovrebbe guadagnare l'83% in più per avere lo stesso potere d'acquisto. Ma la cosa che a me personalmente ha anche impressionato, e non è solo la parte sul pubblico impiego, ma anche sul settore privato. Voi fate un esempio, per esempio un cassiere di banca che già ha uno stipendio, prendete lo stesso tipologia, 5 anni d'anzianità, ha uno stipendio del 7,5% inferiore al suo collega milanese. Però, andando a vedere il costo della vita, in realtà chi lavora come cassiere in banca sempre a Ragusa, guadagna il 27% in più del suo corrispettivo milanese, e a sua volta il bancario di Milano dovrebbe guadagnare il 70% in più. Questo come sballa poi anche, Boeri, tutte le nostre analisi su disoccupazione, reddito disponibile, potere, perché in effetti noi diamo sempre il numero assoluto, no? Il reddito disponibile al sud è sceso a questo livello, ma non diamo mai il rapporto con il costo della vita. Sì, sì, no, certamente. Qui stiamo parlando, comunque, ricordiamoci che stiamo parlando di salari. Certo, poi i redditi, certo, è un'altra questione, perché l'altra faccia della medaglia del fatto che i salari sono relativamente alti al sud, pur in presenza di livelli di produttività del lavoro più bassa, al sud c'è molta più disoccupazione. Quindi quando noi andiamo a guardare al reddito familiare, questo, diciamo, chi lavora al sud sta nettamente meglio, eccetera. O poi ci sono anche differenze tra le diverse province, ma il problema è che poca gente che lavora al sud, proprio perché ci sono questi salari che sono relativamente più elevati, quindi il reddito familiare nel suo complesso, poi alla fine i conti sono comunque favorevoli al nord, ma questo deriva proprio dal fatto che c'è questa comunque un'altra cosa importante da sottolineare è che tutto questo è proprio un portato della contrattazione collettiva che impedisce queste differenziazioni dei salari. Per esempio, noi siamo andati a guardare anche delle occupazioni in cui non c'è contrattazione centralizzata, per esempio i dipendenti degli studi legali. Ecco, qui vediamo che tra le stesse province le differenze sono molto più nette, vanno a coprire quasi interamente le differenze nel costo della vita. Quindi è proprio il fatto che è la contrattazione centralizzata che impone questa compressione salariale, e in realtà questa compressione salariale crea delle iniquità stridenti ed è poi una fonte anche di disoccupazione. Quindi molti problemi sono legati proprio a questo. Dovremmo permettere alla struttura dei salari di tenere conto di queste differenze nel costo della vita. E secondo lei però questo poi rievocherebbe, secondo alcuni, il tema che nessuno vuole rievocare delle gabbie salariali? Cioè... No, assolutamente, perché è una cosa molto diversa dalle gabbie salariali. Le gabbie salariali erano delle differenziazioni salariali imposte dalla contrattazione centralizzata. Qui quello che noi riteniamo importante è che ci sono delle differenze tra imprese che hanno livelli di produttività diversi. Le province, stiamo parlando di nord e sud, ma in realtà ci sono delle differenze molto importanti anche all'interno delle province. Il punto centrale è che quello che si dovrebbe fare è permettere che ci sia contrattazione decentrata nelle singole aziende e poi che ci sia anche una contrattazione centralizzata per le imprese dove non si fa contrattazione aziendale, che però sia in qualche modo più rispettosa delle differenze del costo della vita, per cui fissi delle regole anziché fissare un aumento che sia comune per tutti. Grazie all'economista Tito Boeri. Noi restiamo però sul tema non tanto del costo della vita, ma dei salari o stipendi, nel caso specifico della Sicilia. Sì, lo facciamo perché è chiaro che non c'entrano in maniera diretta, però a maggior ragione quando, come abbiamo appena ricordato, alcuni dicono: beh, bastava mangiare una pizza crotona a Milano per capirlo. Sì, ho capito. Tutti noi viviamo anche della nostra esperienza empirica, però poi quando metti i dati assieme, li analizzi e vai a vedere potere d'acquisto reale e salario nominale, ti accorgi appunto che un bancario guadagna il 40% in più a Ragusa rispetto al suo corrispettivo, non guadagna, ha un potere d'acquisto del 40% più alto, e la stessa cosa dell'insegnante. Dico, a maggior ragione non si capisce perché ci sia un'insurrezione nell'Assemblea regionale siciliana contro l'ipotesi di portare il tetto massimo per chi vi lavora a 160.000 euro, no, il tetto massimo sarà di 240.000 euro. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Allora, sapete che questo programma non ama la volgarità, ma obiettivamente, molto ci siamo interrogati, ma al di là del mitico Marchese del Grillo di Alberto Sodi, noi non riusciamo ad andare. Il tema qual è? Il tema è, lo ripeto ancora una volta, il compenso massimo per i dirigenti che lavorano all'Assemblea regionale siciliana. Mi dispiace, non mollo sul tema, qualcuno mi dice: lei è un leghista a scoppio ritardato, non ha capito nulla, mi scusi, perché abbiamo parlato di Lombardia, di Friuli, di Liguria, di Piemonte, ma che leghista. Comunque, non stiamo parlando della regione Sicilia, ma del Parlamento della regione, quindi non del governo, ma del Parlamento. Allora, c'era stata fatta una proposta da un membro del PD di portare il tetto massimo dei dirigenti a 160.000 euro. In realtà la proposta è stata bocciata, il tetto massimo va a 240.000 euro. Ora so già l'obiezione, noi abbiamo cercato il presidente Ardizzone, non rispondeva, le abbiamo lasciato messaggi. Comunque, benvenuto ogni volta che vuole. So già che il tetto dei dirigenti è sceso da 360.000 a questo punto 240.000. E praticamente, tra l'altro, c'è anche una rivolta interna all'Assemblea regionale siciliana, perché i burocrati intermedi dell'Assemblea regionale siciliana protestano per i tagli, perché se tu abbassi il tetto al dirigente, abbassi il tetto anche all'assistente. Un assistente che è la figura d'ingresso, cioè la figura più giovane, si direbbe junior, nell'Assemblea regionale siciliana, guadagna fino a 3.580 euro al mese per 15 mensilità. Uno stenografo può arrivare a 6.100 euro al mese per il Parlamento della regione Sicilia, regione che nel suo complesso rischia di chiudere. Adesso lo sentiremo dalle parole anche del presidente Crocetta, ma insomma mancherebbero all'appello 1,5 miliardi di euro. Le cifre attuali parlano di 500 milioni, ma andrebbero aggiunte altre voci, gli accantonamenti tributari da versare a Roma intorno ai 150 milioni. Insomma, vedremo, sicuramente chiuderà in rosso, ma ripeto, non è un tema di Crocetta in senso stretto, è il tema, e neanche della politica in senso stretto, ma dei dirigenti, dei dipendenti, dei quadri, degli impiegati dell'Assemblea regionale siciliana. Allora, io vi voglio leggere una cosa che secondo me è una chicca unica, l'intervista di Ardizzone oggi sul Giornale di Sicilia. Perché? Lo dico perché è di ieri. Dice Ardizzone: sarebbe, questo palazzo non si fa condizionare da un populismo che nel tempo, vedrete, si scontrerà con i giudizi scontati dalla Corte Costituzionale e dei giudici del lavoro. Perfino Renzi ha previsto nel suo decreto che i trattamenti pensionistici maturati sono intoccabili. Perfino Renzi, manco fosse. Vabbè. Sarebbe stato facile per noi venire incontro alle pressioni della piazza, e quando mai, e introdurre un tetto magari inferiore anche ai 160.000 euro. Ma come insegnava De Gasperi, una cosa è guardare alla prossima campagna elettorale, un'altra cosa è pensare alle future generazioni. Infatti, giustamente, per pensare alle future generazioni, lasci il tetto a 240.000 e non a 160, così le future generazioni ringrazieranno. Il nostro statuto prevede che le retribuzioni dei dipendenti pubblici, continua l'addizione, non possono essere inferiori a quelle dello Stato. E questa è una logica. Quale? Addizione, è lo statuto, non sono le tavole di Mosè, eh? Si può cambiare uno statuto. Ma vorrei chiudere con due passaggi, a mio avviso, emblematici. La logica qual è di avere delle paghe così alte per i dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana? Qui c'è una professionalità di gran lunga diversa, molto più elevata che altrove. Addizione, se lo faccio dire dagli altri è brutto dire è noto che io sono bravo, te lo devono dire gli altri. Ma dov'è questa professionalità? Dove emerge? Intanto, questo è un passaggio bellissimo, intanto non va sottovalutato che tutti i dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana sono entrati per concorso, superando prove molto complesse. Addizione, come dovevano entrare? Cioè, sappiamo come possono entrare, ma lei sta dicendo che uno dei motivi per cui devono avere degli stipendi così alti perché hanno fatto questa cosa pazzesca di entrare attraverso concorso con anche prove complesse, non con cose che si potevano copiare e magari farsi mandare prima. Io resto allibito. Inoltre ci sono consiglieri parlamentari che hanno vinto anche concorsi in magistratura, ma hanno poi scelto di lavorare qui all'Assemblea regionale siciliana, cioè hanno cambiato sponda. Ancora, abbiamo ridotto di 900.000 euro i fondi riservati alle spese di rappresentanza, va bene, e dalla prossima legislatura non vi saranno più 90, dice sì, 90 parlamentari, ma 70. Ho sempre la prossima, Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. Ma sì, dai, buttiamola a ridere, anche se il tema è serissimo, perché forse la dizione non si rende conto che non è cedere la pressione della piazza. Qui sta cambiando il mondo, è cambiato il mondo, sta cambiando il paese. Allora vediamo se il presidente della regione Sicilia, che ripeto non c'entra nulla con il presidente del Parlamento siciliano, Rosario Crocetta, ha un'idea un po' diversa. Buonasera, grazie per la disponibilità di nuovo con noi, buonasera, presidente. Buonasera. Allora, adesso il Marchese del Grillo, Crocetta, tanto so che era proprio, ce l'avamo qua da 3 giorni e poi finalmente l'abbiamo mandato in onda. Ma mi dica una cosa, io capisco che è tutto legale, io non sto mica dicendo che non sia legale, però faccio notare che i costi, gli stipendi di chi lavora all'Assemblea siciliana sono i più alti d'Italia. In Lombardia, che ha tutto un altro conto economico, sono a 230.000, in Lazio sono alti, sì, e sono alti anche lì, in Lazio 200.000, in Calabria 180, in Veneto 180, in Friuli 160. Secondo me 160 come tetto per un dirigente che lavora. La proposta è 160.000. Dica. Non è genericamente di un esponente del PD, è la proposta mia, del governo, che ha già ridotto i compensi a 160.000 euro per tutti i dirigenti. Il mio segretario generale, per esempio, non può guadagnare più di 160.000 euro. Ha fatto prima già con atto amministrativo, io mi sono insediato nel novembre del 2012, nel dicembre del 2013 ho risparmiato 8 milioni di euro sui compensi dei dirigenti, altro che le 900.000 delle spese di rappresentanza, io ne ho risparmiate 3 milioni comunque all'anno. Giusto per intenderci, perché poi tagliare 900.000 euro di spese di rappresentanza? Io non ho capito quali siano le spese di rappresentanza del Parlamentino siciliano. Ma a quanto ammontano tutte? I predecessori spendevano 2 milioni di spese di rappresentanza. Ma per rappresentare cosa? 2 milioni di euro di spese riservate. Io nel 2013 ne ho spese 50.000, quindi diciamo. Di rappresentanza o riservate? Perché sarebbe molto imbarazzante per me. Io le posso dire perché non spento, ma come gli altri ci riuscissero, francamente io non ho veramente la capacità neppure di immaginarlo. Comunque, torniamo però a te, ma lei ha proposto... La proposta del governo, sì. E questi funzionari dell'ARS e il Parlamento hanno dichiarato inammissibile la proposta del governo, pensando che giustamente il Parlamento si autodisciplina. Solo che il problema è che in questa autodisciplina non si disciplina per niente, perché non è vero che lo Stato, cioè che la Regione, per statuto gli stipendi della Regione sono per forza equiparati a quelli dello Stato. È un limite nello Statuto, lo Statuto ha il valore di Costituzione, di Carta Costituzionale, perché è recepito dalla Costituzione, è precedente alla Costituzione e viene recepito. Però è un limite nei confronti dello Stato, cioè lo Stato non può imporre alla Regione siciliana stipendi più bassi degli statali. Ora, ci sono due considerazioni però, quindi non vale a favore, il legislatore regionale è chiaro che per spending review può fare quello che vuole, ma il problema che noi ci poniamo, ci sono le figure dell'assemblea regionale, sono figure equivalenti a quelle dello Stato, il tetto di 240.000 euro è stabilito da Renzi per il Presidente della Corte di Cassazione e dello stipendio anche del Presidente della Repubblica, che è 238.000 euro l'anno. Ora non mi si dica, con grande rispetto per questi grandi burocrati dalle qualità eccezionali tanto decantate, no? Che praticamente ci sia una figura dentro l'assemblea regionale. Io ho capito che hanno superato un concorso anche difficile. A capo dello Stato, a Presidente della Corte di Cassazione. Questo è uno scandalo. In una regione che, guardi, è sui conti, però la voglio rettificare. Mi rettifichi, perché mi rettifichi. Io li ho messi a posto i conti, perché... Guardi, quanto sono arrivato, ho trovato un buco di bilancio di 2 miliardi nel 2011, di 1 miliardo nel 2012, quindi 3 miliardi si erano mangiate il fondo rischi per il fondo rischi a residui attivi. Io nel 2012 ho fatto un bilancio in cui ho tagliato 1 miliardo e mezzo di euro di spesa strutturale, quindi negli anni, non un anno, una tanto. Più 1.200.000 euro di spese una tantum. Quest'anno il rendiconto consuntivo della regione siciliana porta per il 2013 urli perché le sembrerà un miracolo, 400 milioni di euro di attivo, che ci servono però, che in una situazione normale potrebbero essere investiti in, in sviluppo, interventi a favore delle imprese, interventi a favore dei poveri, interventi per lo sviluppo della società, della cultura, e invece noi dobbiamo, per coprire i debiti del passato, però che stiamo, adesso abbiamo fatto un piano di ammortamento, di spalmatura del debito, il nostro debito adesso è ridotto da 3 miliardi a 250 milioni. Allora resti con resti che sono bravo perché ho fatto adesso, il mio dovere, ecco. No, non le dico che è bravo perché è stato casomai gestivano male gli altri, bravo a ridurre il debito, sì. Vorrei però, dopo le informazioni sul traffico, chiederle che cosa si può fare non solo per questi dirigenti, impiegati, quadri. Ripeto, giustamente gli ascoltatori dicono, quando l'addizione pensava alle generazioni future pensava ai suoi, di figli, ecco, forse così la capisco anch'io, e i figli dei dipendenti. Perché, ripeto, arrivare ad avere 6.000 euro per lo stenografo nel 2014, vi regaliamo un bel registratore noi, vi assicuro, quasi sempre funzionano in digitale, che 6.000 euro al mese. Detto questo, dopo il traffico vorrei che lei mi chiarisse come si fa in un mondo normale a giustificare Sebastiano Di Bella, che legalmente, perché non sta rubando nulla, guadagna 1.600 euro al giorno, fa il segretario regionale dell'Assemblea regionale siciliana, guadagna 600.000 euro lordi l'anno, ma anche lui avrà superato un concorso difficile, un ruolo cruciale. Ma vuoi mettere Einstein? Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Allora, una cosa la devo dire però a chi sta scrivendo. Attenzione, chi parla, non ho nessun motivo per difendere Crocetta, non ci conosciamo nemmeno fisicamente, però chi parla è il presidente del governo siciliano, così faccio capire a tutti. Le spese che stiamo, gli stipendi che stiamo contestando sono quelli che non si sono ridotti e non hanno voluto accettare come tetto i dipendenti, nemmeno i politici, del Parlamento siciliano. La Sicilia, essendo una regione a statuto speciale, ha il suo Parlamento vero e proprio. Allora, Crocetta, visto che lei... Ma io sono uno scandalo, guardi, glielo dico. No, lei sa di chi sto parlando, questo è il segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana. Guadagna... Io però l'ho denunciato per questo scandalo. Il mio segretario generale guadagna meno di 160.000 euro l'anno. E lì è tutta lì la differenza. Ma guardi che il problema è verticale su tutti. Cioè noi abbiamo praticamente i dipendenti, per la parità di lavoro, i dipendenti della regione guadagnano molto di meno di quelli dell'ARS. Questo è inaccettabile, dall'usciere a funzionario a semplice dirigente. Cioè chi lavora per allora la regione? Detto, sì. Chi lavora sì. per la no, così faccio capire. Chi lavora per la regione Sicilia, cioè il governo della Sicilia, diciamo così, guadagna meno di chi lavora in Parlamento. E parliamo dei segretari, dei dirigenti, dei quadri, degli impiegati, sì, di okay. tutti, di quasi dall'usciere al dirigente, guarda. E questo è inaccettabile, quindi è intanto una norma di equità. Ma poi voglio dire, in una fase in cui noi chiediamo i sacrifici ai cittadini, io prima le ho detto che ho tagliato delle spese. Ovviamente ho imposto dei sacrifici, è duro, però che dovevo fare? Stavano facendo fallire la regione siciliana, che dovevo fare? Mi sono messo lì a, come fa un buon padre di famiglia, a aggiustare il bilancio, a eliminare gli sprechi. Non abbiamo licenziato nessuno, nonostante questo, quindi significa che abbiamo mantenuto in piedi una solidarietà sociale. Quest'anno mettiamo anche in progetto con alcuni risparmi. Ho tagliato per esempio quest'anno 1,5 della spesa per destinarla a un fondo per i progetti di cittadinanza solidale per i poveri, perché in una regione dove ci sono 180.000 famiglie che sono al di sotto del livello della soglia di povertà, qualcosa uno lo deve fare, allora, anche per aumentare i consumi, quindi interventi a favore delle imprese, per il credito delle imprese, ma anche interventi per gli ultimi, per coloro che non riescono a fare la spesa quotidiana, dico proprio materialmente. Allora, la lotta contro la povertà più estrema, Crocetta, quei meccanismi, abbiamo presente, abbiamo due minuti del passato, di assunzione di precari, eccetera eccetera. Abbiamo due minuti, mi dica solo una cosa, perché poi ho GR24, devo fare anche la borsa. Però lei, che è, diciamo, il governatore, quindi rappresenta l'esecutivo della regione, che potere ha nei confronti del Parlamento della regione? Nel senso che, dopo che noi ci siamo arrabbiati, abbiamo cercato l'audizione, abbiamo letto le cose, abbiamo gridato lo scandalo, ci pigliamo una bella boccia di Malox e la chiudiamo qui, perché tanto lei non ha potere di intervento? Pubblica, ho fatto una lettera aperta in cui confesso tutta questa mia sofferenza. Questa idea di una Sicilia dove i boschi vengono incendiati improvvisamente, dove il Parlamento non legifera attorno a questioni di privilegi di caste che sono inaccettabili, eccetera. E da un lato c'è chi vuole, che fa, mi arrento, mollo, me ne vado. E a quel punto per fare che cosa? Per trovare un'omogeneità di una, almeno sono un'anomalia, voglio dire, mi scusi. Di cambiare. Io ci penso che ci riuscirò alla fine, perché l'anno scorso l'ho proposto, quest'anno. Già il fatto che poi li ho costretti a portarli a 240.000 già mi pare in ogni caso non un successo, cioè una loro già prima sconfitta, perché hanno ceduto su un terreno dei privilegi. Ma io questa battaglia la porterò fino in fondo, è anche l'opinione pubblica che deve intervenire. Io mi chiedo a volte dove sta l'opinione pubblica in queste cose, dove sta? Cioè tutti si lamentano. Senta Crocetta, ma è abolire le regioni a statuto speciale, no? Vabbè, ma guardi, questo io le dico, non so se è questa la soluzione, io credo invece un'altra cosa, che l'autonomia siciliana si difenda proprio nel modo come io sto proponendo, cioè tagliando i privilegi, se no poi giustamente non ci capisce il mondo non capisce un Parlamento che di fronte a una situazione grave di crisi in cui dobbiamo risparmiare sulla finanza pubblica, dobbiamo intervenire sui poveri, dobbiamo aiutare le imprese, noi manteniamo i privilegi inaccettabili, cioè uno che deve guadagnare 600.000 euro l'anno, c'è stata gente che se n'è andata in questi anni in pensione con 600.000 euro, ma è una vergogna, è una che grida vendetta di fronte al cospetto di Dio, cioè non, no, ma se osiamo parlarne, dice giustamente Ardizzone, sarebbe stato facile per noi venire incontro alle pressioni della piazza, al populismo. Questo palazzo non si fa condizionare da un populismo. Non so più come mettere sta cosa. Io in realtà penso che il mondo non capisca anche perché abbiamo le regioni a statuto speciale, però questa è una mia idea. Io ringrazio il presidente della regione, il governatore della regione Sicilia, Rosario Crocetta. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, non parlo più della Sicilia, intanto torneremo sui temi dei costi della pubblica amministrazione anche di carattere locale. Vorrei invece andare alla borsa, che chiude l'ultima seduta della settimana meno 0,30% Milano, meno invariata invece Parigi, più 0,1 Francoforte, più 0,30 Londra, meno 0,16 adesso l'America, giornata appunto non di quelle che passeranno gli annali, ma Mediaset festeggia l'accordo sui diritti TV del calcio più 4%, Unipossai invece perde il 2,50%, parlo del migliore e del peggiore titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, chiaramente. Guido Maurino, Radio Cora, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, oggi Radio Cora ha fatto anche un sondaggio, avete compiuto un sondaggio, se non ricordo male, mensile con gli operatori finanziari sulle attese. E tra l'altro la cosa interessante, lo dico, è che la quota di così scettici, freddi sulle iniziative di Mario Draghi è abbastanza alta, al 30%, Guido? Sì, è una quota abbastanza alta e in qualche modo anche sorprendente rispetto alle parole e ai commenti che abbiamo visto in questi giorni, in queste settimane. D'altra parte si giustifica in parte perché molti operatori forse preferiscono, avrebbero preferito una misura di quantitative easing da parte della BCE, che di stampaggio di moneta, diciamo. Stampaggio di moneta già da subito, un po' come appunto ha fatto la Federal Reserve americana, e questo si sono detti in parte delusi rispetto a quello che ha fatto la BCE. Certo, comunque diciamo che il 61% lo approva, ma questo un terzo di operatori che critica la BCE è comunque un dato molto significativo. Sì, invito appunto al sondaggio fatto da Radio Corriere sulle 24 ore sugli operatori dei mercati finanziari. Detto questo, venendo invece alla giornata, Mediaset si archivia con l'accordo sulla gara dei diritti. Invece Monte dei Paschi, anche perché era l'ultimo giorno per l'esercizio dei diritti, il titolo ha perso l'1,70% a 1 euro, se riesco a portarmi, eccolo qua, 1,47 euro. Monte dei Paschi da un lato e Unipolsai. Sì, allora, per quello che riguarda Monte dei Paschi, oggi era l'ultimo giorno dell'aumento di capitale da 5 miliardi di euro, il titolo si è mosso un po' nervosamente per tutta la mattina, anche nel pomeriggio è arrivato a chiudere in calo, in una giornata comunque non particolarmente brillante per il settore bancario, dove ci sono comunque tutta una serie di scadenze anche legate agli aumenti di capitale e ai diritti, ma se vediamo un po' tutti, la maggior parte almeno dei titoli bancari oggi hanno perso quota, anche il Banco Popolare -1,51, UBI -1,14 per rimanere a quelli più grandi. Per quello che riguarda Unipolsai invece si tratta soprattutto di un po' di prese di beneficio, perché nei giorni scorsi comunque Unipolsai non si era mossa male, considerando che Milano ha ceduto praticamente in tutte e cinque le sedute di questa settimana, ha perso complessivamente il 3%, Unipolsai si era mossa un po' in controtendenza, oggi sono arrivate le vendite senza che ci fossero notizie particolari sul titolo. Ancora, ST Microelectronics ha lanciato un'obbligazione convertibile da $1 miliardo, se non ricordo male, il titolo. Sì, il titolo ha ceduto lo 0,68%, questa obbligazione si compone di due componenti, una prima da $600 milioni con scadenza a 5 anni, una seconda da $400 milioni con scadenza a 7 anni, ci sarà ovviamente, ci può essere un effetto dilutivo sugli utili per azione, ed è quello che oggi sottolineavano molti analisti, tuttavia c'è anche un'opzione che consente un rimborso cash dell'emissione, per cui l'operazione non è stata giudicata in modo troppo negativo, ecco, dagli operatori di mercato. Ancora faccio notare che il prezzo fissato, mi riferisco al gruppo Unicredit, per la quotazione in borsa di Fineco di 3,7 euro per azione. Unicredit ha messo collocherà il 30% del capitale di Fineco, che in realtà salirà fino al 34,5% con un incasso di $774 milioni di euro. Oggi appunto la comunicazione, il titolo non si è mosso. Altri titoli, Saipem -2,34%, Telecom Italia -1,20%, Enel -1%, come A2A, Pirelli -0,90%, come Campari e CNH Industrial, World Duty Free -0,80%, tra chi ha guadagnato anche la Popolare Emilia Romagna +2,33%, Jux +1%, Prismian +1%, Tenaris +1%, ancora migliori e peggiori in assoluto, oggi CHL +7,40%, Banca Popolare dell'Etruria +6,10%, novità sull'Etruria? No, oggi non ci sono novità di giornata, però comunque una soluzione per la Banca Popolare dell'Etruria va trovata con un nuovo partner, e per cui è normale che ci siano sedute in cui si tende a scommettere su chi possa arrivare a salvare l'istituto. Certo. E poi ancora Medis, abbiamo detto, IT Way +3,30%. Fronte opposto invece Biancamano -5%, Ceramiche Richetti -4%, Invest -4%, Dada -3,90%. Grazie Guido Maurino e buon fine settimana ai colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Ultimo tema di questa puntata, chiaramente l'Europa, tutto si è svolto nel pomeriggio, ecco perché abbiamo tenuto per ultimo l'Europa, la decisione chiaramente del Consiglio Europeo, la decisione su Juncker, ma anche questo patto di stabilità che dovrebbe essere un po' più flessibile, infatti la battuta ieri fu il patto di flessibilità. L'ho detto con molta chiarezza, ho votato a nome dell'Italia per Jean-Claude Juncker in una procedura che si è esplicitata in maggioranza qualificata, perché c'era un documento. Non l'avrei fatto in assenza di un documento, non l'avrei fatto in assenza di un accordo politico tra le forze di coalizione. Ho specificato che per me Juncker è colui il quale ha ottenuto all'interno della sua famiglia politica il maggior numero di deputati, ma è indicato presidente perché c'è un accordo politico anche degli altri, se no non avrebbe numeri all'interno del Parlamento. Questo percorso che va avanti è però un percorso che a questo punto per noi il governo italiano si sposta in Italia, cioè noi abbiamo ottenuto che per la prima volta ci fosse un documento, che per la prima volta questo documento si concentrasse sulla crescita, che questo documento che si concentra sulla crescita esprimesse per la prima volta la possibilità concreta, nero su bianco, della flessibilità per chi fa le riforme. C'è un unico piccolo particolare, ora vanno fatte le riforme, perché io ho sottolineato più volte un concetto che ritengo assolutamente sacrosanto: il problema dell'Italia non è l'Europa, è l'Italia. È l'Italia che deve riflettere su se stessa e proporre un pacchetto di riforme che sia in grado di cambiare faccia al paese. Se un paese fa le riforme strutturali sul serio, ha diritto ad avere la flessibilità, che è il punto politico per noi più importante. Allora concluderei su questo. Così appunto il Presidente del Consiglio poco fa da Ypres, dopo appunto l'accordo raggiunto, ampiamente anticipato anche dai giornali sul nome di Juncker, Renzi ha ribadito: lo abbiamo votato perché c'era un documento dietro. Questo perché all'inizio Renzi disse: non voteremo nessun nome se prima non vediamo un documento, non ci interessano i nomi ma i progetti. Saluto Enrico Brivio in collegamento con noi da Ypres, buonasera Enrico. Buonasera, in realtà sono a Bruxelles adesso, perché siamo spostati a Bruxelles. Sì. Vabbè, comunque insomma, sempre la carovana si è spostata da Ypres verso il grande circo europeo, ha fatto una breve tappa. Sono contento per voi, ma si sono scannati ancora oppure dopo la nottata, dopo i pugni stretti della Merkel, l'arrabbiatura di Cameron, oggi tutto è filato più liscio? Beh, non è filato liscio, nel senso che, come del resto Renzi ha raccontato, il primo intervento per sulle nomine è stato di Cameron ed è stato negativo sulla nomina di Cameron, ed è stato seguito da quello di Viktor Orban, sulla nomina di Juncker, è stato seguito dall'ungherese Viktor Orban, che pure si è espresso in modo negativo. Quindi sono state ingenne queste in queste nomine si procede per consenso, invece questa volta si è dovuto procedere con un voto, e con il voto contrario di Inghilterra e Ungheria la nomina è stata comunque fatta. Quindi un po' ci si è scannati, ma nei limiti del previsto, insomma. Allora, da questo punto di vista, Gerardo Pelosi, Enrico, abbiamo sentito il Presidente del Consiglio Renzi, ha detto: abbiamo votato Juncker perché c'era un documento, e Renzi dice: il punto politico che abbiamo ottenuto nel documento è che i paesi che faranno le riforme avranno più flessibilità nel rientro sul deficit, così capisco io. Adesso il problema è che le riforme vanno fatte, il problema dell'Italia, l'Italia non è l'Europa. Ovvio che Renzi debba vedere il bicchiere mezzo pieno, ma è realmente così? Gerardo? Beh, è così. Diciamo che ci troviamo nel solite labirinti terminologici e lessicali che siamo stati abituati a vedere e a registrare da mesi, da anni. Quante volte con il Presidente del Consiglio Letta o anche Monti siamo venuti qui e c'era stato detto che era tutto risolto, che la flessibilità era quella che serviva al nostro Paese, e poi in realtà quando si è andati a negoziare con non l'IREN, questa flessibilità non c'era. E quindi ci troviamo di fronte all'ennesima battaglia finta, perché è una battaglia finta con la sceneggiata degli sherpa che lavorano nella notte e che poi invece di mettere il pieno utilizzo della flessibilità mettono il buon utilizzo, però poi bisognerà vedere e metterlo in pratica. Io osservo soltanto che nella lettera congiunta del ministro dell'economia Padoa e di Schäuble, del ministro delle finanze tedesco, questa mattina pubblicato su Wall Street Journal, la parola flessibilità non è stata menzionata da nessuno dei due, e quindi questo diciamo forse vorrà dire qualcosa. Allora Enrico Brivio, il punto è molto semplice, io sono d'accordo con Gerardo Pelosi, occupandoci da anni di temi europei, perché sono temi anche di questo programma, non è la prima volta che vediamo un vertice in cui si dice adesso l'Europa ha capito che bisogna mettere più l'accento sulla crescita e meno sul rigore. Io ne ricordo almeno un altro paio di incontri in cui si diceva il patto di stabilità sarà sempre meno stupido. In realtà poi quello che contano sono i fatti, le chiacchiere stanno a zero. Ma veramente adesso con il documento che citava Renzi vi sarà, non dico l'automatismo, ma quasi, perché i paesi che si mettono a fare le riforme possono andare e dire dateci più tempo, e non ho ancora capito il calcolo come avverrà, tra l'altro, cioè cosa fa, va a calcolare il costo della riforma, lo leva dal conto del deficit, Enrico? Ma guarda, senz'altro sono d'accordo anch'io, perché da molto tempo si parla di rendere più flessibile il patto di stabilità. Io mi ricordo il primo vertice che andai nel 96, già si parlava delle condizioni straordinarie in cui si poteva eventualmente derogare al patto di stabilità a Dublino, e ne sono passati di anni. Però diciamo che in questo caso si apre la porta a un uso a pieno uso della flessibilità, insomma, che può essere giustamente interpretato in modo diverso. Come si diceva prima, molto importante sarà anche chi dovrà poi mettere in atto questo documento, che comunque resta generico e strategico. Se ci sarà un only REN, e anche su questo è stata fatta una domanda a Renzi, o se ci sarà un altro tipo di commissario, un altro tipo di commissione che lo interpreti in modo più flessibile. Ecco, in questo senso forse si potrebbero aprire degli spazi. Per quanto riguarda gli esempi, Renzi ha fatto per esempio l'esempio del cofinanziamento dei fondi strutturali. Quello potrebbe essere un ambito in cui l'Italia sta cercando disperatamente di avere degli spazi, perché questo non venga conteggiato a deficit come altri tipi di spese. E cioè la parte dei fondi europei che devono essere cofinanziati per essere attivati dallo Stato o dagli enti locali non dovrebbe entrare nel calcolo, capito bene? Sì, perché ha detto Renzi viene altrimenti spesso bloccata dal patto di stabilità, per cui non si può cofinanziare dei progetti europei che verrebbero in parte già finanziati a Bruxelles, quindi diventa un gatto che si morde la coda. Però anche qui siamo sul piano ancora delle richieste, anche se messe in modo abbastanza perentorio dall'Italia, non abbiamo ancora l'ok della Germania e della nuova Commissione. Ecco, su questo adesso mi rendo conto che siamo in periodo anche di mondiali, però vorrei capire Enrico e poi Gerardo, ma ha di nuovo vinto la Germania? Non è che sia la mia ossessione, l'Inghilterra secondo me ha sbagliato tutto nel proporsi in una trattativa con un no secco senza alternative che l'ha messa in un angolo, e quindi la sconfitta sicuramente è la Gran Bretagna, è l'Inghilterra, la Gran Bretagna di Cameron, ma ha di nuovo vinto la Germania? Brivio e poi Pelosi. Ma diciamo che adesso da parte della delegazione italiana si parla di vittoria, io direi che è un buon pareggio questa volta, insomma, adesso che ci sono i termini sia per portare avanti in qualche modo un progetto più flessibile e orientato alla crescita, però siamo ancora sul piano dei documenti strategici, per cui io lo darei come un pareggio al momento. E per quello che riguarda i commissari, Enrico? Per i commissari vedremo, perché qui è stato anche indetto un nuovo vertice straordinario che si terrà il 16 luglio, e lì verranno definite le altre nomine, i nuovi commissari. Si vedrà anche se la possibilità che il ministro Mogherini arrivi alla carica di alto rappresentante per la politica estera potrà veramente concretizzarsi, mentre Renzi è stato fermo nel dire che invece l'ipotesi di un Enrico Letta per sede del Consiglio europeo è esclusa dal fatto che l'Italia ha già la presidenza della Banca Centrale Europea, cioè di una delle tre grandi cariche apicali, per cui ha detto nei colloqui con le altre cancellerie il nome di Enrico Letta non è apparso. Allora, stessa domanda anche per Gerardo Pelosi, anche tu sei d'accordo, meglio, sì, meglio a Bruxelles che con Nicaragua, che con Costa Rica? Ma guarda, Renzi con la forza e l'abilità sua dialettica, la forza del consenso elettorale, ha detto vabbè, con la Merkel ci sono confronti quotidiani, quindi ragioniamo da pari a pari, però ricordiamoci, qui adesso al di là delle metafore calcistiche, la Germania è la Germania e l'Italia è l'Italia, quindi voglio dire, parliamo di due realtà diverse, anche se diciamo siamo in una unione dove tutti e 28 devono poi praticamente pesare allo stesso modo, ognuno c'ha un voto, però la Germania è la Germania e quindi una forza che la Merkel sta giocando, ma forte di quell'agenda 2000 fatta da Schröder, che è stata quella sì, lacrime e sangue, e adesso la Merkel dorme sonni tranquilli. Per quanto riguarda le nomine, è stato abbastanza tranchant su Letta Matteo Renzi, perché ha detto sapevamo dall'inizio che dei tre top job, cioè i tre incarichi diciamo apicali, che quindi Presidente della Commissione, Presidente del Consiglio, Presidente della BCE, l'Italia non poteva ad aspirarne a due. Però come sappiamo in realtà i top job potrebbero essere anche di più, possono essere quattro, allora in quell'ipotesi di quattro, quindi anche altro, o forse cinque, altro rappresentante del Presidente dell'Eurogruppo, l'Italia potrebbe averne due, allora a quel punto sì che l'Italia può rientrare in gioco con una seconda personalità, che a questo punto può essere la Mogherini o può essere anche qualcun altro. Allora, grazie al collega Gerardo Pelosi e al collega Enrico Brivio. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi, come sempre, per l'assistenza in redazione. Un augurio a voi tutti di un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.